Maria Pinna Caraviello, nata a Benevento il 19 gennaio 1905, fucilata a Firenze il 21 giugno 1944. Moglie di Rocco Caraviello, lo affiancò, spesso sostituendosi a lui per mantenere i collegamenti nella lotta contro i nazifascisti. Dopo averle assassinato il marito, i repubblichini della Banda Carità irruppero in piena notte nella sua casa, alla ricerca di materiale, di propaganda e di armi. I fascisti spaventarono orribilmente i suoi bambini, gettando sui loro letti bombe a mano non disinnescate. Poi portarono via la donna e a Villa Triste la sottoposero ad atroci torture, come avevano fatto con Mary Cox e gli altri patrioti sorpresi nella casa della professoressa d'inglese. Maria Penna, Mary Cox e tutti gli altri furono trucidati a Firenze in via di Capurnia.